Letture di Radio 24. L'assegnazione del Nobel per la pace al dissidente cinese Liu Xiaobo e del premio Sakharov al dissidente cubano Guillermo Fariñas indicano che dopo tanta indifferenza da parte dell'Occidente qualcosa sta finalmente cambiando. E almeno a Cuba i primi risultati si vedono già. A Pechino si sono arrabbiati molto e hanno detto che era un'oscenità il premio Nobel assegnato a Liu Xiaobo, il dissidente che si batte per i diritti umani calpestati in Cina. Due buone notizie, perciò. La prima è che chi sconta anni di galera in Cina solo perché dice e scrive cose sgradite alla dittatura, da oggi si sente meno solo e abbandonato dal mondo. La seconda è che se i dirigenti cinesi fanno la voce grossa, ricattano i governi occidentali che osano ricevere il Dalai Lama, zittiscono le delegazioni occidentali che vorrebbero tenere aperto il dossier dei diritti umani anche nelle trattative economiche, qualcuno non cede sempre, non resta in silenzio, premia chi dissente, non indietreggia davanti ai prepotenti. Due buone notizie se ne trascinano un'altra. L'Unione Europea ha reso omaggio a chi a Cuba combatte per la libertà, assegnando il premio Sakharov a Guillermo Fariñas, detto il Coco, per la sua determinazione, la sua testardaggine, la sua tenacia. Fariñas, che ha trascorso 11 anni nelle galere dell'Havana castrista, ha condotto uno sciopero della fame per 135 giorni per chiedere il rilascio di 26 detenuti politici a Cuba. Ha preso il testimone di Orlando Zapata, un altro dissidente incarcerato per aver osato criticare la tirannia di Fidel Castro, e stroncato da uno sciopero della fame per chiedere la liberazione dei detenuti messi in carcere durante la Primavera Nera del 2003, quando il regime, sulla base di accuse risibili, senza processo, senza garanzie, senza possibilità di difesa, ha cancellato ogni barlume di dissenso, nel silenzio dell'Occidente e nell'indifferenza dell'opinione pubblica mondiale. Oggi quel silenzio e quell'indifferenza non ci sono più. Il Nobel al dissidente cinese dimostra che la battaglia per i diritti umani ha ascolto, smuove le coscienze, costringe i regimi e le dittature a tener conto delle proteste internazionali. A Cuba, grazie a Fariñas e grazie alla mediazione della Chiesa Cattolica, hanno cominciato a liberare i dissidenti. A Teheran non possono più far finta di niente quando l'opinione pubblica mondiale protesta contro la lapidazione di Sakineh. A Pechino e a Shanghai una polizia politica onnipotente e brutale sa che ogni sua mossa repressiva avrà ripercussioni sui media di tutto il mondo. Sono piccoli passi, ma decisivi, segnali di un isolamento che si sta spezzando, di una complicità internazionale che si sta sfibrando. Una piccola speranza per i dissidenti che nelle dittature del mondo marciscono in galera. Magari in quelle stesse dittature come l'Iran e la Libia, che nelle Nazioni Unite presiedono commissioni adibite alla tutela dei diritti umani. Piccoli segnali, ma importanti. Una lezione per i governi, a cominciare da quello italiano, che per un contratto in più dimenticano e nascondono le violazioni dei diritti fondamentali. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Dissidenti premiati, dittature indebolite, dal Corriere della Sera del 25 ottobre. Letture di Radio 24. La morbosità mediatica scatenata dal delitto di Avetrana rischia di trasformare gli spettatori in guardoni e in nome del diritto di cronaca si valica il confine di quella pietas che si dovrebbe sempre avere di fronte al dolore. Mario Calabresi, direttore della Stampa, spiega ai lettori perché ha scelto di non pubblicare gli audio degli interrogatori. Esiste un gesto antico di pietà che mi torna in mente continuamente in questi giorni. È quello di coprire il corpo di chi è morto in un luogo pubblico. Lo si fa con un lenzuolo bianco, una coperta, un qualunque indumento che protegga almeno il volto e il busto di chi ha perso la vita rimanendo esposto su un marciapiede, in mezzo alla strada, su una spiaggia o in un campo. È un gesto codificato dal mondo greco, almeno 25 secoli fa, e non serve soltanto a proteggere i morti dallo sguardo dei vivi, ma anche noi stessi, i vivi, dalla vista della morte. È il limite del pudore, del rispetto. È il simbolo della compassione e della capacità di fermarsi. Oggi si è fatta strada in Italia una strana concezione dell'informazione che si potrebbe sintetizzare in un gesto, quello di sollevare il lenzuolo e spingere tutti a fissare quello che c'è sotto. Molti restano incollati all'immagine terribile, altri sfuggono, alcuni cominciano a provare disgusto. Domenica scorsa, grazie al lavoro dei nostri giornalisti, abbiamo avuto gli audio degli interrogatori di Avetrana, le voci di Michele e Sabrina Misseri, con la confessione dettagliata e tormentata da parte dello zio dell'omicidio di Sara Scazzi. Non era mai capitato di aver la possibilità di ascoltare in tempo reale un interrogatorio, divulgato fuori da ogni regola prima ancora dei rinvii a giudizio e di qualunque decisione della magistratura. Ci siamo chiesti cosa farne e se metterli subito sul sito web, sicuri di fare un record di contatti. Ne abbiamo discusso e abbiamo deciso di buttarli, perché non aggiungevano nulla a quello che avete già letto fino ad oggi, perché non servivano a chiarire nulla e perché potevano essere utili solo a solleticare le morbosità, a infilare la testa più in fondo nel pozzo. Ne abbiamo avuto conferma poche ore dopo, quando una trasmissione televisiva per famiglie, pagata con il canone e in orario pomeridiano, ha cominciato a mandarne in onda frammenti audio accompagnandoli con un dibattito osceno e surreale. Chiariamo subito un punto. Queste voci non raccontano niente di diverso o di nuovo rispetto a quanto è stato scritto finora. Ma allora, si potrebbe obiettare, dov'è il problema? Credo che esista una sostanziale differenza fra il riportare un fatto, il raccontarlo mettendolo nel suo contesto esatto, o invece nel gettarlo in faccia a chi ascolta senza alcuna mediazione. È in quella differenza che è nato il giornalismo, che ha trovato un senso e una ragione d'esistere. Ci sarà un motivo se da decenni all'inizio di un processo la Corte si ritira per decidere se possono entrare i fotografi, in caso di decisione negativa negli Stati Uniti entrano in azione i disegnatori, o le telecamere in aula. Succede perché la delicatezza di un caso o la necessità di frenare una deriva emozionale può richiedere attenzioni superiori. Qui da noi, da tempo ormai, è saltato tutto. Questo dibattito in parte lo abbiamo già fatto nei mesi scorsi, quando era in discussione la legge sulle intercettazioni, e così si trovano disponibili le voci dei presunti assassini, mentre vengono interrogati, come le intercettazioni telefoniche un momento dopo essere state registrate. Per anni il nostro mestiere è stato quello di cercare di ottenere una notizia in più, una frase di un interrogatorio, il racconto del tono di una voce. L'imperativo, sano e comprensibile, era quello di pubblicare tutto quanto era possibile raccogliere. Era una sfida continua con chi invece le cose doveva proteggerle e non divulgarle, perché questo gli imponevano ruolo e mestiere. Poi qualcosa si è rotto. La porosità attuale, in cui si è inondati di carte e ora anche di audio, richiede un comportamento nuovo, ci impone di scegliere e anche di buttare via. Non è qualcosa che strida con il compito di un giornalista se il motto stampato sulla prima pagina del New York Times, tutte le notizie che vale la pena pubblicare, prevede che ci sia una selezione che scarti ciò che non vale. Dobbiamo continuare a raccontare e a svelare senza sosta, dandovi ogni elemento utile a comprendere, ma rifiutando di farci casse di risonanza di ciò che trasforma noi e voi in guardoni. Proprio in America mai si sognerebbero di divulgare l'audio di un interrogatorio, anche se hanno messo da tempo in rete le telefonate dell'11 settembre, ritenendo che questo servisse a ricordare il dramma, ma mai è stato mostrato un solo cadavere dei morti delle torri. Perché non si tratta di censurarsi, ma di valutare e di non far prevalere soltanto il criterio degli ascolti, del numero di copie vendute o dei click su internet. Le immagini di un terremoto hanno il compito di far capire le dimensioni di una tragedia, ma indugiare sui cadaveri, mostrare brandelli di corpi, volti maciullati, non serve a nulla, se non a trasformarci in megafoni dell'orrore. Sono convinto esista un limite e domenica scorsa passava per la diffusione di quei file audio. Per questo penso sia tempo di tornare a rispettare quel lenzuolo bianco. Altri lenzuoli, invece, il giornalismo deve continuare a sollevarli e sono quelli che rivelano gli scandali, le corruzioni e le criminalità, che fanno meno circo e meno audience e amerebbero il silenzio. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Mario Calabresi, Il rispetto del lenzuolo bianco, dalla stampa del 25 ottobre.